America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24, da New York Mario Platero. Abbiamo parlato negli ultimi giorni molto di politica, di economia, di incontri di Barack Obama con gli amministratori delegati delle grandi aziende americane, di proposte per riduzioni fiscali approvate al Senato, di vari dibattiti. Beh, oggi vorrei parlarvi d'arte, vorrei parlarvi di un allestimento straordinario di Bob Wilson, il grande artista coreografo americano. La mostra si chiama Per Chance to Dream. Perché voglio raccontarvi di questa mostra? Perché non è usuale vedere un artista americano interpretare delle realtà italiane. Bob Wilson non soltanto interpreta e rende omaggio al design italiano, ma lo fa attraverso Roberto Bolle, con delle fotografie, con dei video, cercando così un senso di continuità delle forme e con un'analisi del movimento che sembra non esserci ma in realtà c'è. Mi spiego, ci sono dei fotogrammi che si susseguono in cui l'impressione che si ha è di vedere delle fotografie in bianco e nero, poi invece osservando in maggior dettaglio ci si rende conto che qualche movimento c'è, per esempio una palpebra che si chiude oppure un leggero movimento del ventre perché c'è il respiro, sempre movimenti impercettibili. E Bob Wilson ha potuto fare questo studio grazie alla straordinaria prestazione artistica appunto del grande ballerino della Scala Roberto Bolle. Il tutto è immerso in un contesto catastrofico, sembra di essere in uno scenario apocalittico post terza guerra mondiale con rovine dappertutto, e poi invece questi video molto eleganti, molto puliti, che danno questo senso della continuità e della possibilità di continuare a sognare nonostante attorno a noi possano esserci soltanto rovine. It's a way for me to say thank you to Italian design. It had a tremendous influence on my life. Ho intervistato a lungo Bob Wilson su questo suo allestimento e vi riassumo quello che mi ha detto. Avete ascoltato la sua voce. Ha voluto ringraziare il design italiano, che dice ha avuto una influenza molto molto importante sulla mia vita artistica. Secondo lui l'impatto straordinario degli italiani è che sono rimasti fermi in qualche modo al Rinascimento, e ricorda di aver visto delle riviste del 1932-33 di Domus, e riviste che già da allora erano straordinariamente moderne. I have a very close relationship with chairs. I have maybe close to 2,000 chairs in a collection. So chairs are very special to me. They're like they have their own personalities. They're like when I work in the theater, I usually have a special chair. In questa chiacchierata con Wilson abbiamo continuato a cercare di ricostruire un po' il perché di certe sue scelte, e mi racconta della sua relazione con le sedie, perché in questo suo allestimento ci sono una gran quantità di sedie molto diverse fra loro, e Bob Wilson rivela di avere un'ossessione un po' con le sedie. Dice di avere una collezione di almeno 2000 sedie. Sedie di ogni genere, sedie, dice, che per me sono molto importanti, hanno una loro personalità. Dice, quando lavoro nel teatro in genere ho una sedia molto particolare. I work with counterpoint, so I took this room which is used to be the Dia Foundation, which was famous for showing minimal art, so it's usually very minimal, and I've mostly destroyed the room. It looks like a room that has been bombed. Ecco, qui Bob Wilson entra più nel dettaglio del minimalismo di questo suo allestimento. Un minimalismo, dice, che serve sempre a cercare di porre l'attenzione su queste forme che restano in movimento. E dunque in questo allestimento cerca di stimolare il pubblico con delle contrapposizioni che di nuovo hanno come punto di riferimento alla fine l'ispirazione del design italiano, e soprattutto questi ritratti di Roberto Bolle, che ho intervistato per chiedergli come è stato lavorare con Bob Wilson alla Scala. Sentiamo Bolle. È stato un progetto che nemmeno immaginavamo che diventasse così grande. La volontà di lavorare insieme, è nato un Boom Portrait, volevamo farlo, ed è nato questa esposizione con tanti screen, diversi multiscreen, con diverse parti del mio corpo, alcune corpo intero, altre solo piedi, mani, diverse situazioni che abbiamo fatto dopo 2 giorni di lavorazione a Milano. Ecco, ma il movimento è rappresentativo di lei che sta fermo e ci sono i piccoli movimenti, oppure è fatto in modo digitale? No, il movimento è in presa reale, quindi sono io che sto immobile mentre lui plasma le luci sul mio corpo, cambia le atmosfere, e sembra una foto, tanto è immobile, però si vedono dei piccoli movimenti come un battito delle ciglia oppure l'addome che si muove per respirare. E lo sfondo, ci sono dei corridoi in cui vediamo dei lupi, vediamo degli animali, vediamo degli oggetti. Che senso hanno? Questa è tutta opera e creatività di Bob. Io ero il soggetto che lui ha plasmato per realizzare. È contento del risultato? Tantissimo, orgoglioso e felice, ed è stato un vero onore lavorare con Bob. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno: Neon Indian, Children of the Revolution. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!